Hola, canale 23. Hola. Hola, canale 23. Hola. Atenzione, canale 23. C'è nessuno? Attenzione, signor Bacchisio. Hola. Bacchisio. Signore. Gianmarì. Ebbe. A Pirvati, vai in Sazzola. Ehi. Arrasciateva. Hai cominciato con un butteggio e ne ha parato una druda. Stai ciavanzano, cazzo, già è barriata. Ma me l'ha immaginata, oggi faceva. Buona mezz'oretta, gatta, salviti, sta a fare segni, gatta. Io forse sono un tendore, gatta, ma poi fare, poi la fredda, gatta. Sta pizzicando, in chi vi dà pizzicato? Poi era bisogna malacqua, no? Ma io me ne immaginavo, è già di no, dice, è la fine che fate, vedi, mica faccio ma figlio, oh, da qua si mette un po' come. L'ha messo da ieri, l'ha messo oggi, che non si sa che ora, ma la puzza aveva. Domani, va, vediamo un po' domani, che sta va. Vuol dire, rimani in casa, cioè, cosa vuoi fare? Andiamo. E allora, si fa dei valdi anni, non si può andare a ciocano, oh, un tempo magari andavo quando faceva Eva, ma vanno, oh. Cazzo, ma cominciato a fare il nome, e non si vede più la gioca. Ma per la Monza, se abbiamo fatto un bello poco, ancora di più, la città della Monza. Vai c'è la Monza, a vai per la Monza, E ancora, però non ha passato bene, di fare, fai la Monza, capito? Che fa la pazienza, andava via, ma vado più, no, è un tempo andavo, ma va che vado, si ha giocato la Monza, figlio mi era comporeggio, cioè come ci fosse la gioca, e cosa vuoi fare? No, cazzo a giocare il calcio da questo con il male che me. Fate così, allora vuoi dare un pareggio? Ero qui, e non c'hai il mattarello, lo capo, zecchetti, all'untarello, no. Per comprare, certo magari la gioca si fa, che è più saurita di chi sa che vendere, chi sono del vivaio, capito? Ma è buono Mattesi, dai. Dai, buono Mattesi, per cui andare così. E arrivare a dove si è andato? Adesso che è andato, è sul luogo, se è andato meglio, è rimasto a mangiare un barugane, il fatto che si 100 km. E poi è andata, è tornata, è a casa. E non sono uscito più poi, siamo andati a Bugano. Anche quello bisogna fare, purtroppo. Ma noi eravamo ivi, pensate la mia figliola a ottavo, e già mi sono stato ai ricchi, davo mangiato e salato, perché vedete che se vedo se facevo gli uti, e ci stava bene ieri. Non c'era tanto di freschetto, comunque, era buono. Ieri sera c'era Bacchisio e poi è entrato Marino. È entrato le sera Bacchisio? Sì, verso le 7:30 è entrato, 7:20 da. E poi è entrato Marino, è entrato. Lì non ce l'avevo il baracchino, sì, magari l'avrei acceso, però sai quando sei in mezzo a 30 ieri in compagnia cosa fai? Il baracchino ti vuole fare da. Oh, fine niente, c'è la mezza chiacchierato più o meno e insomma se si chiare male ma niente, nulla, non insultati, non l'ha già ucciso ma niente. Per cui stasera buono Battista, la macchina sera intendibile, speriamo. Sì, hai detto che lo chiamiamo. Attenzione signor Battisio, ma deve darci ancora aiuto. Ehi, ancora sarà in campagna, ragazzi, sta passeggiando ancora. Mamma, dove sarà più tardi, verso 7:30 quando rientro a casa. No, va via alle 7, qualche volta va via. Alle 7:10. Se vuoi comincia a fare più bugio e quindi si inizia prima. Ah, ma così che è entrato un buono marino, arriva. Sì, si è impegnato qui. Stava facendo roba intorno alla casa, tu canto, se poi non è a posto, tu canto. Ecco, ma chi c'è? È chiaro, tra le travaglie da voce, vabbè, arrivare la domenica. È chiaro che ci deve fare, lui la cosa. So che nessun altro l'aiuta è di chi, o no? No, infatti. Così che deve fare la sura. È giusto che sia così. E poi Ivi fa sempre che fa, Sembra così, ma c'è sempre da fare in campagna. Anche se abiti lì, non manca mai da fare. Troppo. Manca mai, no? Vabbè. Dabbè così. Ehi, portate i giochi a livello. Sono iniziati la sua faccia, come abbiamo visto, per cui va bene così, dai. Speriamo di sentire anche stasera Bacchisio, ma a vedere un po' cosa fai, perché senti zappendo in campagna, che si tracca mai, no? Purtroppo se lo deve fare piano piano e sempre andando i durizi. Certo, magari la domenica se vado con la famiglia a campagna magari già c'è la casa, per cui potrebbe andare anche meglio ancora, dai, a non ci attende parenti. Sì. Senti, signor Battisio. Oh, ma cazzo, se n'è ancora. Magari c'è ancora in campagna, fate andando, vedi. Magari verso le 7:30 magari ci muore il viaggio. Penso che sia già a te, ne ponete la macchina. Se no se ci ha pagato con qualcuno. Il lavoro l'avevi finito, tu? Sì, stasera mi abbiamo finito, c'è solo da attingere e basta, però un paio di giorni lo lascio asciugare. Ebbene, bisogna lasciare asciugare bene, perché almeno a mantenere bene la pittura, capito? Ma non so, devo lasciarlo solo asciugare piano piano e poi dare la prima ambasciata e poi il resto. La fai tu, il bianchi lì tu, no? Io lo do, tanto non è un bel mamma la cosa. Sarà colonna montante, non è che sia molto grande, per cui si potrebbe fare benissimo. Ci ha dato un po' di fastidio a toglierla e a metterla. Almeno c'hai una cosa fatta e sei tranquillo, cazzo. Faccia 4 mesi in più. Infatti, ma così scorre bene l'acqua e tutto quanto. Solo ci è andato a Cosina ieri. Ieri mattina era nuvoloso, ma si stava bene, era pantalone in gocce, si stava benissimo. No, quando vai da solo con tua moglie? Solo, ieri mattina sono andato solo. Certo. Vabbè, non è che sia molto lontano, quanti chilometri sono? 80 dal territorio? No, 100 chilometri per più sono, fino a dove arrivo io sono 102 chilometri da. Ma dal territorio, non mi? Ho capito. Senti, 8, non è che sia molto, per cui, sembra così, ma è lontano, Non 108, no, 102 chilometri. Ah, vabbè, la giornata era bella. Cazzo. Ma io ti conosco ancora il cane, sì? Sì, è a Puglia, e mi ubbidisce pure, quando mi vede, se vai viene per incainato. La memoria, la rimane, non appeggia la memoria, no. Se rimane impressa all'animale. Infatti, non la perde no, ma anche gli altri si stanno abituando a vedermi e piano piano stanno conoscendo, però non so se li libero, non so se mi obbediscono a entrare dentro la gabbia. Magari e a conviene entrarci. Gli ho pulito io ieri tutti e tre, prima quella che c'avevo voi e poi l'altra femmina e poi gli altri due che sono, piano piano gli ho pulite, cambiate l'acqua e tutto quanto. Ma rimangono sempre in gabbia così? No, io quella che avevo io ieri l'ho liberata per un paio d'ore, ma ha fatto dei figurridi, un pararo mio, a un paro che si immaginò, quindi certo mi ha gurrida. Ah ecco, vai là e stai un po' con loro così? Sì, sto un paio d'ore ci sto con loro. Beh, già sarai molto contenti quando li molli e si è liberi, capito? È solo che mi si dispiace per gli altri tre che non posso liberarli. Ecco cos'è, che non so se mi ubbidiscono. Ma non sono tuoi gli altri? No, non sono miei, io ci vado solo per visitare il mio, però tanto che sono lì, se non vengono gli altri le cose gliele pulisco io e gli cambio l'acqua. Ah, ecco. Vabbè, non ci deve pensare il tutore che è lì. Il fratello sta venendo, poi quando è libero lui, che ha la giornata libera, sale anche lui e pulisce tutto e gli mette quello che gli deve mettere, li lascia liberi però lui. Ah, ecco. Non capisco. Molto lontano dal paese, so. Dove c'è l'incrocio, fai 2 chilometri e si è arrivato. Verso Bonorba o all'interno di così? Andando verso sulla strada di Bonorba. Ho capito. Ho capito dove era. Beh, l'importante è che li trattino bene, dai, quella cosa importante, che li trattino bene. Sì, io trattavo bene, solo che quando va il fratello si rimane in bogo e non li libera, ecco cosa è. Ci va poco, pulisce e poi si innamma, perché non so, lui mi ha detto che non gli ubbidiscono. Ecco. Beh, certo, non essendo i suoi magari, però dopo tanto cominciano, dovrebbero obbedire, gatta, penso io, dopo magari che li conosco, si conoscono là. Ma conoscono solo un padrone, conoscono, ecco cosa è, conoscono solo un padrone, obbediscono solo a lui, quindi, invece quella che ho io, obbedisce a me e all'altro che c'ha il terreno. È già una cosa buona. Infatti, io ho visto ieri che quando l'ho messa dentro, è entrata subito dentro e l'ho lasciata dentro. E poi sono andato via. Bene, vediamo un po'. Signor Marchisio. Infatti io ho visto che ieri, quando ce l'ho messo dentro, mi ha detto mamma e dado. Ma di tu sì, menando, se no mi veniva che cosa e mi tocca rimanere agli attacchi. Beh, addicata, ma mi sa un po' più che si ne andate, rimanerete. Infatti, già lo comprendi, sì. Già lo sa che deve andare dentro e poi almeno 2 ore in giro già è stata. Eh beh. Almeno riprendo sempre il contatto, da. Sì, già lo so. Già intelligente, non so perché. L'altra due che non. L'altra tre che non. Una l'ho tolta fuori, però. Noi ho visto che non mi obbedisce tanto, allora già ci volta d'ora entrare, l'ho lasciata un pochino fuori, però ce l'ho rimessa dentro. Ma sono tutti di una gabbia oppure ognuno c'ha la gabbia sua? No, ognuno c'ha il posto suo, c'ha. Ognuno c'ha il posto suo. Maschio e femmina sono nel primo, nel secondo c'è quella che ho io e nel terzo c'è l'altra femmina. Ecco. E di chi sono quegli altri? Di gente di Sassari oppure di così? No, di Cosuine, il padrone. Magari poi quando togli fuori tu, magari così magari sarebbero stati contenti a uscire fuori, per invece non si può fare. Non lo so se mi obbediscono, ti ho accarezzato tanto e coso, però non so se mi obbediscono a me, ecco cos'è. Una ho visto che quando l'ho tolta dopo l'ho fatta rientrare, ho visto che è rientrata, però gli altri due non mi fido. Il posto quando li toglio è molto grande. Il posto dove le faccio girare, viene il luogo va a girare e corri. È parecchio il posto, così che possono girare benissimo, però sarà tutto recitato, non possono andare, da lì non vanno nessun posto. No, dall'altra parte non li faccio andare perché vicino c'erano le pecore, quindi dall'altra parte non ce li faccio andare, rimangono dalla parte dove ero io, dove ci sono i box e tutto quanto. Vabbè, ma è recitato il posto dove camminano i cani, no? Sì, quello sì, è tutto recitato e non escono fuori. Quello che vuol dire molto, anche se non ti obbediscono, però no, non escono fuori e per cui rimango sempre dentro lì e per cui sono tranquilli, capito? Sì, gli altri rimarrebbero, però per farli entrare nella gabbia non lo so se mi obbediscono. Quella che ho fatto uscire ieri insieme a quella che ho io, visto che dopo gli ho detto entrare dentro la gabbia, già entrata, un po' a essere vagio, però non mi fido tanto. Certo, bisogna fidarsi, no. Potresti magari ti obbedisco oppure no, chi ne sa. Sono animali per cui. Ha fatto bene comunque, vai. Bisogna andare, farli girare un pochettino e almeno non perdono l'amore col padrone, dai. Bene, vediamo un po', attento signor Marchisio, niente da fare, a quale non è partito. Purtroppo è così. Allora già non lo perdono, già lo sanno che ci vado, non spesso, ma già ci vado. E già lo sanno loro che non è molto lontano la strada. Ma se riesce a fare un nuovo vizzino, va mai bene. Certo, lontano sì. Essendo vicino magari non tutti i giorni, ma almeno due o tre volte alla settimana lo si potremmo fare, essendo vicino. Ma essendo così lontano, sembra così, ma è un bel lontano, purtroppo. La gioventù di niente, animali, moto, macchine d'epoca, vespe, Puglia. Se tanta moto grossi ha gioventù, deve essere che ne ha afferrato uno. Poi trafficato, senza ricaglio è stato trafficato, dai. Ma sono parecchie 500 o macchine un po' grosse. rossetti, e cosa non vina d'epoca. Dimmi una cosa, per il ritorno hanno fatto qualche cavalcavia da Cosini oppure diversamente? No, ti metti nell'uscita per andare a 131, attraversi quella che sta avvenendo e ti metti nell'altra. C'è il coso per uscire, se metti nella 131. Ma c'è cavalcavia per il ritorno? No, passi sempre sulla strada, sulla 131 proprio passi. Vai da una corsia all'altra. C'è il posto per uscire. Perché dopo volevo farlo lì. E invece non l'hanno fatto, evidentemente. Perché vedi, per andare a Cosio, come si chiama, a Giave, hai visto che c'è un cavalcavia, ritornando. Sì, gli hanno fatto, invece lì non hanno fatto nulla, devono fare un rientro da sotto e mettersi sulla 131, invece devi attraversare con la macchina, è un posto brutto. Beh, chiaro, attraversare così la strada, capito, è macello. Pensavo che avessero fatto i cavalcavia, invece non l'hanno fatto. Male, sono gli assurdi. Male, giusto. Perché le buone tutti e delle buone è sempre un governo che poi è denaro, compreso, non è di. Un bel tipo che tenta di muovere ecco e le va di fare. La sorte, ragazzi. Quello dovrebbe essere per conto dell'ARAS oppure conto lo Stato. O qualche altra azienda c'è. No, è gestita dall'ANAS, è gestita. Ecco cosa è. Gestita dall'ANAS. So che devi fare l'uscita, controllare se sta arrivando macchine dalla corsia. Se non stanno arrivando, attraverso immediatamente, ti metti sulla sinistra e poi ti entri sulla destra. Come ce ne sono parecchie che ancora non hanno terminati. Invece a Muro c'è Carriere che l'hanno fatto, meno male. È capitato tra Muro e la superstrada, è successo di certo a mio fratello, ma il tribunale ci hanno messo la pelle tutti e due, mentre adesso invece c'è cavalcavia. Così dovrebbero fare, però o non lo fai sopraelevato o lo fai passare da sotto. L'unica è essere sollevato e basta, sotto magari secondo il punto che viene male, mentre invece è sollevato e anche per le intemperie, il ritiro delle acque, eccetera, capito? Magari prima o poi lo faranno, vai. Omaggio mai. Finché non succedono delle patatracche non si decidono, capito? Macello. E ce ne so parecchio. Sono parecchi da Cagliari questi incroci così, che non si sono cavalcavia e devo per forza attraversare la strada, ragazzi, per andare alla corsia giusta, ragazzi, è un macello. È così che faccio. Ciao, grazie di non cambiare. Attenzione, signor Battisio, non da davà. Senz'altro ce l'ha a casa, salvo che non ci sia rinfrescata ancora, e va bene, non è certamente aperto, per cui ce l'ha il tempo per rinfrescarsi, dai. Ehi, ce n'ha avuto in Macedono, mezzo in un garage, torrente, si è fermato a fare da. Qualche cane c'ha che sta gridando? No, è un cane con un buffaccio. Ah, quello che c'è, che tu sei il cosa brontolare, capito? Ecco. Ho buffato nuovo, era il regalato che sono. E c'è giochere. Allora, se ce ne vuoi segnare, ma non prevista, che mondo mondo. Niente. Ma quello il cane è tuo, così è? No, è sempre di mia figlia, ma ce l'ho io, ce l'ho. E quanto ne ha tua figlia? Questa qua è la lupa, due sono. Ah, è culo, e là è uno ce l'hai a casa. Pensavo fossi tu. No, quello che c'avevo è morto e quindi è da se ne ha pigliato un altro, se ne ha pigliato. Per babbo qui che si riccheggia, capito? Infatti c'è una che non mi tratto. Lo sanno, anche voi, vabbè, un sacrificio papà, ma no, non per sempre, perché da quel gioco mi sa sia un po' bizzante. Poi specialmente alla certa età. Infatti. La gira ha detto, c'è una che non mi tratto. Se la ciappa non gagna, se la ciappa. Non lo fai, cazzo, non lo fai tu, anche magari sarei dovuto attenzionare dai salivare, per cui se ti manca, non urti, ormai bisogna stare affezionato, però se mettere voi il bocce mi fa un piacere. Io quando avevo lo cruciale che mia figlia gli ha lasciato a casa, cazzo, anzi che quando sono mancati, lui siamo stati male, ma male veramente, ecco perché ho fatto il giuramento, non più alle mani in casa, di nessuno, non ne voglio per nessuna ragione. Infatti in campagna c'era solo 4, così era, di cani sotterrati. Quattro ce ne sono, si può immaginare. La mamma e i figli. La mamma e i figli. Vedo un poco. E ti dico che quando sono morti, cazzo, sono stati parecchio che stavamo. Stavamo male anche noi, dai. Sì, perché ti fa così, ti fai. Perché c'è la compagnia e poi sono tratto in mamma, ecco cosa. Ma l'ultima. Che ragazzo poverina non riusciva più a camminava solo con le zampe davanti, dopo mi spostavo io se l'andava lì, cazzo, il giorno che è morta proprio, cazzo, sono andata alla finestra della sala a affacciarmi, trascinone poverina è venuta fin là finché non ce la faceva più, faceva più male che bene, per carità. Perché si trovano così le cose, di camminare, trascinarsi, però c'è il rimedio adesso, lui fa una carrozzina e cammina con quelle di davanti solo. E non reggeva più, poverino, allora. Cazzo. Lui mi ha fatto veramente male a me, cazzo. Poi lui non scendeva, se non scendevo io non scendeva lì, cazzo, solo un mese scendeva, e poi ubbidiva, era ubbidienza, cazzo, per cui siamo stati un mesetto buono che insomma siamo stati male, ecco, non bene, male, ecco. Però allora abbiamo fatto il lamento, chi ha animali più in casa, no. Basta adesso, basta. Non bastava quello di campagna, anche questi qua. Infatti, adesso sento che cerco di andare a coppia. E poi quando si ha piacere a un animale che viene a mancare, e li ho portati a tutti i campi, anche quelli della mia figlia, dell'altra mia figlia pure, così che quattro ce ne sono, fino di più. perché ci sono anche due pastori tedeschi pure che mi sono morti in campagna. Sì, anche due pastori tedeschi, si può immaginare. Tutto brutto che quando si innandano, ecco cosa. Che cosa? Brutto che quando si innandano. Abbiamo uno, un pastore tedesco, Aro. Catta. Figlio di quel pastore tedesco che era al monte, che il padre scendeva, gli dava la busta, scendeva al mercato, quello del pesce gli dava, glielo metteva in bocca e portava la busta del pesce a casa sua, li puoi immaginare, il figlio di quello era. Purtroppo anche loro arrivano a una certa età e poi si andano in Burwede. È facile. Aveva avuto un barboncino pure ciò, da piccolino, allora lavoravo con Multinello, ve l'hanno dato loro e io gli ho fatto grande. Allora avevo la gabbina a sesso piccolo e lo lasciavo in gabbina, no? Quando me ne salivo io, che non scendevo, pigliava le cose e se ne finiva a casa. Allora il portone non c'era qua, saliva sulle scale e mi solava il campanello. La vista quello di fronte a me, nel pianerottolo, c'era un'altra famiglia allora. Cazzo, si metteva dritto, solava il campanello che era arrivato lui qui. Purtroppo anche loro sono così e fa, ce l'ho qua davanti, ce l'ho io, perché mi rugiugo. Questo saliva da sesso pettine, saliva e scendeva, mangiava e dopo se ne scendeva, ti puoi immaginare. Un bei amici lo vedevano salendo, dicevo, ma io ho visto il cane tuo salendo a destra, ragazzi, tranquillo, ma è una cosa incredibile, ragazzi. Eccole lì, ma l'hanno messo il boccone, l'hanno messo, noi sappiamo più o meno chi è che l'ha messo il boccone, ragazzi, è andato a finire male anche quello, ragazzi. Lui solo doveva mettere il boccone invece di mettere al cane, quello lì solo doveva mettere, lui ha... Quello era intelligentissimo, cazzo, io mettevo sempre il cambio, allora avevo il cambio sulla strada, no? Però fuori parcheggiavo, la notte si coricava sotto il cambio, si coricava, guai si avvicinava nessuno, cazzo, gli era cosa già, era bravissimo, intelligente, cazzo, dopo è un peccato, cazzo. Ricordi che ha tirato purtroppo sì, ormai c'è coso, dovrebbe essere a fine novembre a portarselo via. A novembre? A fine novembre dovrebbe scendere a portarselo via, ci hanno trovato la casa. Trovata, ecco, allora si riportano là, tutti e due, e ti lasciano in faccia a te, certo? Dopo ti annui. Non è tanto di gozo. C'è cosa di acciappare a casa oggi? Ma è un sacrificio enorme che fanno questi ragazzi, portarci gli animali là, magari qua sarebbe stato diverso la questione, ma portarli là, è un sacrificio enorme. Tutto da Londra fino a Genova, poi pigliassi la nave, vieni a Genova e tornassi così. Puoi immaginare, stato risolto tutto il problema, però essendo là a portarli là e poi che è stato anche tu lavorato tutti e due, cazzo, è un sacrificio, un sacrificio grandissimo che ha fatto. Cavoli loro sono, che hanno coraggio di tu, ma male pure da intendere. Ormai che ce l'hanno, non è che posso dare così facilmente. Però forza maggiore, se uno ha impegni molto urgenti, non è che può usare con gli animali anche, capito? No, lei la mattina quando entra a lavorare, la mattina c'è, nel pomeriggio che lavora. È un macello, se all'altra parte c'è posto per gli animali, allora sarebbe allora li posso tenere tranquilli così. Una casa con un giardino devono trovare. C'è una casa con un giardino, allora sì che c'è il posto. L'importante è che c'è anche chiuso e che non escono fuori, capito? Che vanno a fare cose che non devono fare fuori. Lui già pure se esce ritorna, quella là è che se esce non ritorna, perché non sa orizzontarsi. Ah, così è. Già che metta presso a lui, ha già visto che quando le mollo, la mollo senza guinzaglio, ha già visto che si cade così. Quello è brutto, quello è brutto da fastidio quello lì, No, ma lei mette appresso a lui, mette appresso, perché conosce a lui e lui sa dove sta andando e quindi mette appresso a lui. Va bene, va, io chiudo. Saluta Macchino se rientra. Ci sentiamo domani, buon proseguimento, saluto di casa, grazie alla chiacchierata. Ma chi se vuol dire, lo sentirò l'altro giorno. Ok, ok, ci sentiamo alle prossime, Giomari. Ok, ciao Giomari, stammi bene. Ok, ciao, chiudo.